Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Ma vintage tu. Sono i videogiochi. Lo sai com'è. Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Vengono ore di sonno. Sono i videogiochi. Vengono il sesso di tonno. Sono i videogiochi. Ora lo studio, le mamme, le donne non sanno chiedere aiuto. Volevo l'Intellivision, bambino fortunato. Mio padre mi compra lo Spectrum col nastro. C'era l'Atari 2006, mio cugino aveva Pong, ma in sala giochi c'era Donkey Kong. Poi Super Mario, che avevamo su Nintendo 16, in sede con Polare, anche Mortal Kombat. Mentre il calcio col Commodore, chi se lo ricorda? Da Asteroids a Pac-Man alla PlayStation 1. Li hanno esposti anche a Londra al Museo del Design. Sono made in Japan o made in Taiwan o a Silicon Valley. Puoi scambiarli o scaricarli, o amarli o odiarli, o prendere il joystick e giocarli. Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Ore di sonno. Sono i videogiochi. Il senso di torno. Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Dall'Amiga al Sega Master, sono ormai in tutto il mondo le case di software e hardware. Preferivo gli arcade alla vecchia che il videopoker, l'invidio poco. Da piccolo con 200 lire un'ora al bar al videogioco ha quasi sostituito il flipper. E già da ieri, prima della PSP, c'era lo scacciapensieri. Dei videogiochi ne parlano i giornali, i portali. Ci giocano i malati negli ospedali, gli amici sui divani a livelli mondiali. Alcuni sono film interattivi, multimediali. Sono più negozi di giochi che musicali. D'inverno non ti fanno andare nei locali. Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Sono i videogiochi. Ore di sonno. Sono i videogiochi.